Padre, noi ti ringraziamo in questo luogo e ti preghiamo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nei cieli. Noi desideriamo, Padre, che in questo luogo la manifestazione piena della tua potenza possa essere presente, esattamente come presente nei cieli. Noi vogliamo pregarti questa sera che la rivelazione tua, così come chiara, limpida in cielo, possa essere chiara, limpida su questa terra, in questo luogo, questa sera, nella vita di ciascuno di noi. Grazie perché possiamo pregare questo tipo di preghiera, grazie perché l'ascolti, e noi ti chiediamo con tutto il nostro cuore: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, Padre, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nei cieli. Alleluia, amen, amen. Dai una pacca alla persona che ti sta a fianco e digli: ti voglio bene. Ma non perché l'ho detto io, perché ci credi veramente. Quindi, insomma, faglielo sapere. Non è solo perché il pastore me l'ha chiesto di dire. Ci credo veramente, ti voglio davvero bene. Poi, se non vuoi bene veramente a quella persona, il Signore ti perdoni. Stasera parleremo dell'amore. No, non parleremo dell'amore. Però è sempre il messaggio dell'amore, perché Dio è amore. Quindi stasera invece parliamo dell'entrare in una nuova stagione. Se io dico cambio stagione, che cosa ti viene in mente? E tutte le donne risposero: lo stress, capelli bianchi, cinzia, gialcia, all'ansia. E sì, è così. Il cambio stagione è quella cosa che soprattutto le donne sanno come si vive, come si fa. Io non tanto, io grazie a Dio, forse non dovrei dire così, però grazie a Dio non ho una donna in casa, sono solo e ho un mio quattro stagioni, tutto per me ed è tutto lì. E quindi il mio cambio stagione si tratta solo di poca roba da cambiare da uno scaffale all'altro, ma il cambio stagione è quel momento in famiglia nel quale tutto viene ribaltato, rivoltato, rivisto, perché i vestiti vecchi della vecchia stagione, della stagione precedente, non vanno bene per la stagione nuova, perché non puoi metterti una magliettina quando comincia a far freddo. Avete percepito che è cambiata la temperatura? Stamattina abbiamo parlato di un cambio stagione, oggi sono abbassate le temperature, ieri uragani e tempeste. Insomma, è così, è un cambio stagione. Noi siamo alla soglia di una nuova stagione della nostra Chiesa. E questo non dipende dal calendario. So benissimo che siamo ancora in estate, che l'autunno viene a fine mese, però io sono convinto ed è mia convinzione che la nostra Chiesa è a un cambio stagione. Noi siamo in un momento critico, importante, determinante come Chiesa, perché ci stiamo lasciando alle spalle una stagione e stiamo entrando in una nuova stagione, ed è mia convinzione che questa è una stagione straordinaria, che quello che stiamo per vivere come Chiesa non ha precedenti ed è la più bella stagione che la nostra Chiesa abbia mai potuto vivere. Amen? Amen. Qualcuno è d'accordo? Sono contento di questo. Sapete, ed è indifferente se sei d'accordo o non sei d'accordo, è una mia convinzione e io credo che lo Spirito Santo ci sta guidando in una nuova stagione ed è roba sua, non dipende da noi, lui la farà comunque. Questo è qualcosa che lui ha decretato per la nostra Chiesa ed è tanto, tanto, tanto evidente. Noi stiamo entrando in una nuova stagione di Chiesa, stiamo entrando in una nuova stagione di conquista. Noi vedremo in questa stagione più salvezza, più liberazione e più guarigione di quelle che abbiamo mai visto. Noi vedremo un cambiamento nella nostra città, in questa regione e in questa nazione come non l'abbiamo mai vista. Amen. Noi stiamo per entrare in una nuova stagione che riguarda il ministero dei bambini, che non ha precedenti. Il ministero dei bambini sta per vivere una stagione nuova di impatto, dove le nuove generazioni saranno impattate in una maniera incredibile. Luigi, preparati. Luigi mi sa che sta dietro, è già pronto. Ah no, sta dietro, è con noi. Luigi, preparati, è una nuova stagione per il ministero dei bambini. Ci sono grandi cose, te l'ho già detto stamattina, lo ripeto qui davanti a tutta la Chiesa, ci sono grandi cose in serbo per il ministero che il Signore ti ha affidato, e non hanno a che fare solo con gli appuntamenti nuovi e straordinari che il Signore ha messo nel tuo cuore di realizzare, primo fra tutti back to school, ma c'è molto, ma molto altro. Il Signore sta dando a noi come Chiesa grazia di poter raggiungere i bambini e vedere un cambiamento sin dalla fanciullezza, sin dall'infanzia, nella vita di tante persone. Amen. Upside down, posso chiedere a chiunque ha meno di 28 anni di alzarsi in questo momento, e che nessuno bari, Antonio, per piacere, siediti, bellissimo, vogliamo fare un applauso ai nostri giovani, rimanete in piedi, avete meno di 28 anni, andatene fieri, perché è troppo bella la stagione che state vivendo, e ho questo da dirvi: il Signore ha una nuova stagione per la generazione dei giovani in mezzo a noi. Gli Upside Down stanno entrando in una nuova stagione che non ha precedenti. Raffaella, Sara, Giuseppe, tutti voi, Giacinto, Luca, chi è in ultima fila? Stefania, tu sei sposata, quindi rientri nella rete dei giovani adulti. Ti puoi sedere, Stefania, oppure fai alzare anche tuo marito. Ok, va bene, dai, vale anche per te, Saverio. Stefania, Saverio, state per entrare in una nuova stagione. A parte gli scherzi, questa stagione è speciale, ragazzi. È una stagione di conquista, dove voi state per scrivere una nuova storia dei giovani della Chiesa Pieno Vangelo di Modugno, e voi sarete precursori di un percorso che i giovani di questa Chiesa non hanno mai ancora vissuto. Amen? E la Chiesa è con voi, per questo applaudisce. O applaude. La Chiesa è a Modugno, quindi applaudisce. Fosse stata a Firenze o Milano, applaudiva, ma noi applaudiamo, va bene? Noi ne andiamo fieri di questi giovani. Vi potete accomodare, una nuova stagione per i gruppi familiari. Io ho piena convinzione che quello che andremo a vivere nella stagione che ci sta davanti, adesso che riprendono i gruppi familiari, non ha precedenti. Sta per esplodere un movimento di gruppi familiari, e noi vedremo sempre più gruppi familiari nelle case che porteranno cambiamento nelle palazzine, nei quartieri, nei vari paesi dove sono distribuiti i gruppi familiari. Quindi se un capogruppo, aspettati grandi cose, perché stai entrando in una nuova stagione. Sono così entusiasta, perché entrando stasera, proprio Domenico mi fermava che all'accoglienza, e lui diceva: ho aspettativa per questa nuova stagione. Lui non sapeva niente del messaggio e non aveva la più pallida idea che avrei predicato questa predica, e lui mi ferma e mi fa: io ho grandi aspettative nel mio rientrare e riprendere l'impegno con il gruppo familiare, perché so che ci sono grandi cose. Credo che questo, Domenico, non te l'abbia rivelato nessun altro se non lo Spirito Santo che dimora in te, si vuole servire grandemente di te, Natalie, per una nuova stagione esplosiva dei gruppi familiari. Amen. Amen. La nostra Chiesa sta per entrare in una nuova stagione dove noi stiamo per fare cose che non abbiamo mai fatto. E vedremo cose che non abbiamo mai visto. Ed è entusiasmante questo. Se penso alla conferenza di Chiesa, Dio ci sta dando grazia e sta spianando una strada per un weekend nel quale ci sarà un impatto nella città di Bari, provincia, nella regione e in tutta Italia, ed è Dio che ha prestabilito che ci sia questo weekend per cambiare, rinnovare, equipaggiare e fortificare la sua Chiesa. Ed è per questo, non per un'email fatta, non per un messaggio mandato, non per delle telefonate che Sara, Vito, io abbiamo fatto, ma perché lo Spirito Santo ha voluto, determinati pastori hanno scelto di venire dal Canada, dall'Inghilterra, dalla Germania, dall'Austria, per essere qui perché hanno a cuore l'avanzamento della Chiesa italiana e vogliono essere partecipi di quello che lo Spirito Santo vuole fare di nuovo, e vengono qui a Bari. Non è a Roma questa conferenza, non è a Napoli, non è a Milano, è finalmente in casa nostra, e noi non siamo spettatori di tutto questo, ma protagonisti. Amen. Ed è entusiasmante quando vedo la lista delle persone che si stanno iscrivendo da Varese, dalla Sicilia, addirittura degli amici dalla Grecia che hanno chiesto informazioni, si vogliono iscrivere, vengono da altre parti dell'Europa per partecipare a questa conferenza. Io dico grazie Signore, perché Tu hai scelto gli ultimi per essere i primi, la città di Bari dimenticata da tutti per essere promotrice di un risveglio per la nostra nazione. Questa è la mia convinzione. Amen. Una stagione nuova si sta aprendo, questo è il tempo, e tu sei invitato a immergerti. Dall'alluce all'ultimo dei capelli che c'hai in testa, forse ce ne hai pochi, Giovanni Lupoli, non sto parlando di te, però tu immergiti pienamente in questa stagione, non risparmiare niente di te, che nessuna cellula del tuo corpo sia risparmiata dall'entusiasmo di immergerti ed essere protagonista di questa nuova stagione. È una nuova stagione di Chiesa, ma è una nuova stagione per la tua vita. Questo io voglio decretare nel nome di Cristo Gesù. È una nuova stagione. Teresa, stai davanti a me, è una nuova stagione per la tua vita. È una nuova stagione per la tua vita. Le cose vecchie le puoi lasciare alle spalle e puoi immergerti in quello che è un cammino nuovo che Dio ha per te. Lo stesso vale per te, Stefania, giusto? Dov'è Stefania? Oh, azzeccato! Stefania, lo stesso vale per te. È una nuova stagione. E chi è in fondo, chiunque mi sta ascoltando, posso dirti questo, lo sento da parte dello Spirito Santo, è una nuova stagione per te, è una nuova stagione, c'è un cambio di stagione da fare. Togli i vestiti vecchi, comincia a prendere i vestiti nuovi, comincia a prepararti per quello che di nuovo puoi vivere. Sapete, quando incominciamo una nuova stagione, qualsiasi stagione della nostra vita, bella o brutta che sia, il più delle volte noi subiamo la stagione che viviamo. Questa è una stagione nella quale noi cominciamo di nuovo ad andare a scuola, no? Penso ai ragazzi, o riprendiamo al lavoro. E non so voi, ma nasce un po' quell'ansietta, quel rammarico di dire ma era così bella quella sdraio con l'ombrellone a Santa Maria di Leuca, e adesso invece devo rientrare in quell'ufficio caldo e noioso e devo riprendere a lavorare. Molto spesso le nuove stagioni corrispondono con nuovi sentimenti, e il più delle volte non sono dei sentimenti belli. Dio non vuole che noi viviamo la nuova stagione in maniera passiva, che non subiamo un cambio di stagione, ma noi decretiamo l'attitudine e l'atteggiamento col quale vivere la nuova stagione che Dio ha per noi. Ed è per questo che stasera voglio parlare al tuo cuore, voglio parlare a ciascuno di noi su come vivere una nuova stagione che Dio ha preparato per te. Perché dato per scontato e assodato che questa è una nuova stagione, parte questa sera, non domani, stasera parte una nuova stagione per la tua vita, se tu accetti e ricevi questa parola profetica. Decretato questo, dato per scontato questo, una volta che abbiamo assodato questo, io voglio insegnare, predicare questa sera e darti due punti su come vivere appieno una nuova stagione. Dio vuole darci un cambiamento. Vi ricordate il messaggio di domenica scorsa? Vito ha predicato in una maniera fantastica sul cambiamento, sul passare da essere dei bambini ad essere degli adulti, a non rimanere immaturi, ma a scegliere di crescere e di appropriarsi di quella maturità che Cristo ha per noi. Dio non vuole, vi ricordo un po' il messaggio di domenica scorsa, che noi rimaniamo col piccio. E testuali parole di Vito, Vito ha concluso il messaggio, se non l'hai ascoltato vai su YouTube, cerca Pieno Vangelo, Vito Marinelli e ascoltati il messaggio fino alla fine perché è di grande benedizione, quindi ti invito ad ascoltarlo. E lui ha finito il suo messaggio dicendo: io posso crescere. Che bella affermazione. Dire io posso crescere, perché Gesù dice che io posso crescere, perché Gesù dice che io posso avanzare, maturare, lasciarmi alle spalle il piccio, lasciarmi alle spalle un atteggiamento immaturo, e io posso crescere perché Dio che ci invita a crescere. Infatti poi Vito ha proprio aggiunto: io sono invitato a crescere da parte di Dio. Abbiamo bisogno di un cambiamento, abbiamo bisogno di una crescita. Così ha concluso il messaggio domenica scorsa, e io voglio prendere da lì, dal messaggio di domenica scorsa, e voglio incoraggiare ciascuno di noi, voglio incoraggiarti a credere nella crescita e nel cambiamento che Dio ha per te. Come? Come puoi fare questo? Punto numero uno, sono solo due punti questa sera, spero che tu possa seguirli entrambi con attenzione. Il primo punto è non rimanere un osservatore. Non rimanere un osservatore. Punto numero due, poniti degli obiettivi. Poniti degli obiettivi. Non rimanere un osservatore. Perché non rimanere un osservatore? Perché quando noi leggiamo i Vangeli, noi ci rendiamo conto che Gesù insegnava, guariva e folle intere lo seguivano. Erano migliaia, decine di migliaia le persone che si accalcavano attorno a lui, al punto tale che a volte lui non aveva letteralmente la possibilità di muoversi. Vi ricordate quell'episodio dove hanno dovuto calare da sopra il tetto un paralitico perché nella porta, nella stanza, in quella casa non si poteva entrare, tanta era la folla, tanta era la calca. Eppure è Gesù stesso a dire dalla sua bocca a quelle persone, a quella folla, che non tutti loro lo seguivano per le giuste ragioni. È stato lui stesso a mettere in guardia la folla e a dire: non avete capito tutto. Il fatto che voi mi seguite è motivato dalle ragioni sbagliate. Voi siete ancora in una condizione di osservatori, perché queste erano persone che osservavano, che amavano osservare i miracoli di Cristo, amavano osservare Gesù che faceva grandi prodigi, addirittura amavano cibarsi di quella che era la moltiplicazione dei pani e dei pesci che lui ha fatto. Ve lo ricordate quell'episodio? Dove Gesù addirittura gli ha detto: voi mi seguite, sapete perché? Perché vi ho saziati. E poi ha detto: prodigatevi non per il cibo terreno che perisce, ma prodigatevi per il cibo che non perisce, quello eterno. La differenza dall'essere osservatori a essere discepoli sta in una domanda che noi ci poniamo. Io voglio farvi osservare questa cosa, perché questa folla è evidente che non ha seguito Gesù e non ha capito niente di quello che lui insegnava, però c'è stato un episodio in Atti 2, noi lo sappiamo, che alla discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, quando loro hanno cominciato a parlare in nuove lingue e si sono espressi nelle lingue delle varie dei popoli e tribù e nazioni che erano rappresentate a Gerusalemme in quel momento, dove c'era in corso una festa importante, in quell'episodio alcuni, ancora nella posizione di osservatori, hanno cominciato a commentare quello che vedevano e a dire: ma sono usciti pazzi? Questi si sono ubriacati, ragazzi. Questi sono pieni di vino dolce. E questa è la condizione degli osservatori. Gli osservatori stanno distanti, assistono a quello che è il miracolo di Dio, ma al posto di prendere il privilegio di coinvolgersi e viverlo loro, per loro stessi, cominciano ad argomentare o a incuriosirsi. Pietro, con tanta franchezza, mosso dallo Spirito Santo, si alza, comincia a predicare, fa una predicazione efficace, molto franca, molto diretta, e dice a quelle persone, la folla, la stessa folla che ha seguito Gesù, ma non si è fatta coinvolgere da quello che è stato l'insegnamento di Gesù, a quella folla Pietro dice: siete stati voi che avete ucciso Gesù. Voi non l'avete riconosciuto come profeta mandato da Dio, voi non avete ricevuto la salvezza per la quale lui è venuto e voi l'avete messo in croce, ma lui non poteva rimanere morto su quella croce perché la morte non lo poteva trattenere. Il terzo giorno è risorto e quello che vedete voi oggi è l'adempimento della promessa di Dio. All'udire queste parole, questa folla passa dall'essere osservatori a essere veri discepoli. E sapete qual è stata la differenza? È stata una domanda. Una domanda che loro hanno fatto ai discepoli. E la domanda la leggiamo insieme in Atti 2, dal versetto 37, dove leggiamo: udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, vogliamo leggerlo insieme? Fratelli, ci siete tutti? Riuscite a vedere? Che è giallino, no, è celestino. Non sono daltonico, ve lo assicuro. Papà lo è, ma io no. So che qualcun altro è daltonico. Comunque, non entriamo in questo. Fratelli, che dobbiamo fare? Potete ripeterlo? Fratelli? Fratelli, che dobbiamo fare? Fratelli, che cosa dobbiamo fare? Pietro, Giacomo, Giovanni, Bartolomeo, che cosa dobbiamo fare? Questo è ciò che fa la differenza da un osservatore rispetto a un discepolo di Cristo Gesù. Un discepolo non si ferma ad osservare. Un discepolo non si ferma a chiedersi: cos'altro c'è da sentire? Un discepolo non si ferma a dire: cos'altro c'è da vedere? Un discepolo non viene la domenica a chiedersi: cos'altro potremo assistere? Un discepolo di Cristo Gesù raggiunge la maturità di essere discepolo e abbraccia una nuova stagione della sua vita. E qui parte una nuova stagione per 3.000 persone e da questo momento in poi è una nuova stagione per l'intera città di Gerusalemme. Andatelo a leggere, avviene un risveglio. Perché? Perché queste persone hanno scelto di uscire fuori dal posto comodo di osservatori. Si sono tolti dalle sedie dove giudicavano, argomentavano, criticavano, osservavano, si cibavano, si saziavano, gli piaceva vedere miracoli e hanno cominciato a farsi la giusta domanda. La giusta domanda che ti fa afferrare la nuova stagione e viverla al pieno è la domanda: che cosa devo fare? E lo so, è una domanda dura. È per questo che molto spesso non la facciamo. Vi è mai capitato di stare nella stanzetta in preghiera, fare tante preghiere e poi avere nel cuore, perché lo Spirito Santo a volte ci guida proprio a fare le preghiere, e lo Spirito Santo mette nel nostro cuore: chiedi a Dio che cosa devi fare. E tu dici: no, meglio che non la faccio questa domanda. Meglio non domandare a Dio che cosa devo fare, perché so già che cosa mi deve dire. E molto spesso è così, noi sappiamo già che cosa lo Spirito Santo vuole che noi facciamo, e la differenza dall'essere una semplice folla che assiste alla bella stagione di un altro gruppo di persone chiamate discepoli è proprio il fatto che non hanno il coraggio di fare quella domanda. Vuoi essere un discepolo di Cristo? Domanda, chiedi a Lui: che cosa devo fare? Pietro risponde: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato e riceverete il dono dello Spirito Santo. Bello, diretto, conciso, senza mezzi termini: ravvedetevi, rientrate in voi stessi, cambiate direzione di marcia, tornate indietro, fate una inversione a U, pentitevi e cambiate la vostra vita e adesso date spazio a quel Gesù che avete messo in croce, accettate il fatto che Lui è venuto per salvarvi, fate quello che Lui vi chiede di fare. Battezzatevi, battezzarsi è un'ubbidienza, è un atto di ubbidienza. Tu ti battezzi non perché è logico, non perché è bello, non perché fa cool ed è la cosa più bella da vivere. A volte è molto imbarazzante, a volte è molto difficile, ma battezzarsi è un atto di ubbidienza ed è il primo più grande atto di ubbidienza. Sapete, io voglio elogiarvi questa sera, perché se sei qui è perché tu ti sei posto questa domanda. Tu sei un discepolo di Cristo Gesù, perché tu ti sei posto quella domanda e hai detto: Gesù, ok, ho avuto rivelazione di chi sei, che cosa devo fare? Il fatto è che però questa domanda non può rimanere nel nostro passato. Non può essere la domanda che abbiamo fatto 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, quando eravamo disposti a fare tutto. Deve essere una domanda che rimane costante nella nostra vita. Vuoi entrare in una nuova stagione a partire da oggi? Fermati con Dio e di: Signore, che cosa vuoi tu che io faccia? E Lui ti risponderà. Sempre Pietro, qualche anno dopo, scrive una lettera alla Chiesa. Sempre Pietro, attraverso le sue parole, ci incoraggia questa sera a vivere un cambio di stagione. Punto numero 2, poniti degli obiettivi. Andiamo a leggere in 2 Pietro, capitolo 2, dal versetto 3. Ci siete ancora? Siete attenti? Questo è importante. Se hai afferrato il primo punto, che cosa devo fare? Ora afferra il secondo punto, quale obiettivo mi devo mettere? 2 Pietro, capitolo 2, versetto 3, troppo bello, bellissimo, troppo impegnativo da sviscerare tutto, però vi incoraggio a rileggerlo, leggerlo e rileggerlo, e rileggerlo ancora, e meditarlo, e studiarlo a memoria, perché è un passaggio della Bibbia davvero importante. Oggi andremo solo a vedere un aspetto di questo passaggio, però dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Vi sta dicendo, questo è il grande cambiamento che hai vissuto, questo è il grande cambio stagione, il più grande cambio stagione. Questo è quando ti sei ravveduto, ti sei battezzato, la tua vita è stata rivoltata come un calzino e questo è dovuto alla grazia di Dio. Però poi aggiunge e dice: voi, per questa stessa ragione, perché è avvenuto tutto questo nella vostra vita, dice, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. La virtù è eccellenza di moralità, la virtù è santità. E aggiungere alla fede ora il concreto desiderio di vivere una vita esemplare come Cristo Gesù, dove non ci macchiamo delle cose di cui si macchiano questa generazione che c'è attorno, la società, il mondo che ci circonda. Questo è: alla fede aggiungete la virtù. Aggiungi la virtù, combatti per la virtù, modifica e cambia e cresci e vivi il cambiamento che Dio ha per te, ponendoti l'obiettivo di vivere santità. Alla virtù, la conoscenza. Alla conoscenza, l'autocontrollo. All'autocontrollo, la pazienza. Alla pazienza, la pietà. E cos'è la pietà? La pietà è la riverenza nei confronti di Dio e tutto ciò che riguarda Dio. Alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Perché se fate queste cose, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili. Sarete fruttuosi, sarete come Cristo, porterete frutto nella vostra vita e il vostro cambio stagione significherà il cambio stagione per tante altre persone, perché sarà un effetto a catena, un effetto domino. Non sarete sterili, sarete fruttuosi. Dio ci chiama ad essere fruttuosi. Non sarete né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei vecchi peccati, avendo dimenticato di essersi chiesto anni addietro che cosa devo fare, avendo dimenticato di richiedere quella domanda per continuare il percorso che Dio aveva in mente per lui. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più. Impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ascoltatemi bene l'invito dell'Apostolo Pietro. È espresso con queste parole, le abbiamo appena lette. Metteteci da parte vostra ogni impegno. L'appello dell'Apostolo Pietro, l'invito suo, è anticipato da queste parole. Aggiungete. L'invito dell'Apostolo Pietro è anticipato da queste parole: impegnatevi sempre di più. L'invito dell'Apostolo Pietro è: datti degli obiettivi. Vuoi vivere cambiamento? Vuoi vivere la benedizione di Dio? Vuoi godere di maggiori ricchezze? Non rimanere fermo. Datti nuovi obiettivi alla fede che hai, perché ce l'hai la fede, sei qui perché hai fede, ti sei battezzato perché hai fede. A quella fede aggiungi la santità, datti un obiettivo. Questa è una nuova stagione nella quale tu ti puoi impegnare a combattere quel vizio, quel peccato ricorrente, quel pensiero impuro, quell'atteggiamento superficiale e che sai benissimo che è contrario alla volontà di Dio e ti sta rubando e sabotando il piano di Dio per te. Alla tua fede aggiungi questo obiettivo. Perché parlo di obiettivi? Perché è ovvio, io credo che a questo noi tutti ci arriviamo, che il cambiamento è determinato dalle nostre scelte, giusto? Se vogliamo cambiare, dobbiamo scegliere di cambiare. Se scegli di cambiare, cambierai. Se non scegli di cambiare, non cambierai. Se scegli di entrare in una nuova stagione stasera, entrerai in una nuova stagione. Se non scegli di entrare in una nuova stagione ci sarà attorno a te, per altre persone, per la Chiesa che andrà avanti, ma non sarà la tua nuova stagione. Quindi il cambiamento è determinato dalla tua scelta. Però ascoltatemi bene, la forza della scelta sta negli obiettivi, sta nel porsi degli obiettivi chiari, specifici, delineati, raggiungibili. Dio vuole che noi abbiamo degli obiettivi. Gesù era un uomo di obiettivi. Gesù era un uomo che prendeva in seria considerazione il pianificare ogni cosa. Aveva degli obiettivi specifici, diversi da quelli nostri. Tu hai dei nuovi obiettivi specifici che Dio vuole suggerirti per questa nuova stagione e quegli obiettivi saranno la forza della tua scelta. Altrimenti, se non ti poni degli obiettivi, le tue scelte rischieranno di rimanere dei buoni propositi. Qualcuno ha detto: la strada pavimentata per l'inferno è pavimentata appunto da buoni propositi. Noi siamo ricchi di buoni propositi. Noi tutti vogliamo cambiare, vogliamo migliorare, vogliamo essere un marito migliore, un padre migliore, una moglie migliore, una madre migliore. Noi tutti, ragazzi, vogliamo essere più sicuri di noi stessi, vogliamo essere di influenza per le persone che ci circondano. Tutti noi vogliamo cambiare, tutti noi ci vogliamo liberare di quel peccato, di quel vizio, di quella debolezza. Questo è assodato, non ho dubbi. Tutti noi vogliamo cambiare, però se vogliamo trasformare i nostri buoni propositi in scelte concrete, dobbiamo passare attraverso gli obiettivi. Gli obiettivi sono lo strumento a nostra disposizione per verificare dove siamo nel percorso con Gesù. Poniti degli obiettivi concreti, pratici. L'Apostolo Pietro è molto concreto, è molto pratico. Aggiungete a questo, a quest'altro, quest'altro, quest'altro. Sono tutti suggerimenti e per ogni area tu puoi aggiungere degli obiettivi. La conoscenza, ad esempio. Prendo ad esempio questo. Aggiungete la conoscenza. Vuoi crescere nella conoscenza di Dio? Vuoi crescere nella conoscenza della Sua parola? Questo passa da obiettivi specifici. Devi leggerla. Obiettivo specifico: cominciare a leggere la Bibbia ogni giorno. Cominciare a prendere un piano di lettura. YouVersion, vi suggerisco YouVersion. È un'applicazione per chi insomma ha un cellulare e suggerisce degli ottimi piani di lettura dove ti guidano a leggere dei versi ogni giorno. Oppure fai il tuo piano di lettura. Non hai mai letto la Bibbia? Comincia dal Vangelo di Giovanni ogni giorno. Mirko, non sai quante volte ho già letto la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Continua a crescere nella conoscenza. Quando veniamo in chiesa, vuoi crescere nella conoscenza? Sapete un dato molto triste, una statistica molto triste, è che il 90% di quello che ho appena detto sarà spazzato via nelle prossime ore. È molto incoraggiante per me che ho dovuto faticare nel preparare questo messaggio, appunti e ore di lavoro, ma è un dato di fatto. Il 90%, se io domani ti incontrassi per strada e ti dicessi: beh, ti è piaciuto il messaggio di ieri? Io sono certo che mi risponderesti sì. E se io a quella domanda aggiungessi: mi dici che cosa ho raccontato, che cosa ho insegnato? È una domanda che non faccio mai. È una domanda che non farò mai. Perché ogni volta che viene fatta è una distruzione totale. E non per colpa tua. Non è una colpa che hai tu. È come funziona la nostra mente. Abbiamo troppi input, veniamo presi da troppe cose e quindi il messaggio che Dio ha per noi viene spazzato così facilmente via, a meno che noi non ci mettiamo e ci poniamo un obiettivo. L'obiettivo di prendere appunti, ad esempio. Io lo faccio ogni domenica, prendo una frase, un aspetto che del messaggio che viene predicato ha colpito il mio cuore, per poi andarmelo a rileggere durante la settimana. O quando ricordo vagamente che mi è piaciuto il messaggio di Vito, per assicurarmi che l'ho capito bene, l'ho ascoltato abbastanza, vado su YouTube e me lo riascolto. Questo è porsi degli obiettivi concreti per la conoscenza, ma per la santificazione vale lo stesso. Poniti degli obiettivi specifici per la santificazione della tua vita. Alimenta il tuo spirito, alimenta il tuo tempo con il Signore. Poniti degli obiettivi per il tuo matrimonio, degli obiettivi concreti, passare una serata con tua moglie per fare domande cuore a cuore. È facile dire io voglio un migliore matrimonio, ma quello può rimanere un buon proposito. Lo vuoi far diventare una scelta concreta? Vuoi vivere un cambiamento nel tuo matrimonio? Poniti l'obiettivo specifico. Ogni settimana un appuntamento cuore a cuore con mia moglie, dove a lei do la libertà di fare domande scomode a me e io la libertà di fare domande scomode a lei. Poniti degli obiettivi concreti. Smettere di frequentare determinate persone. Smettere di guardare così tanto Facebook, internet ed essere completamente coinvolto da tutto quello che è lo schifo che ti viene rimbalzato contro in quei posti lì. Qual è l'obiettivo specifico che il Signore ti sta mettendo nel cuore? In questo momento sono convinto che lo Spirito Santo sta parlando. Non mettertene troppi, cominci con piccoli, pochi obiettivi, ma comincia da qualcosa. Vogliamo alzarci in piedi, io voglio pregare. E io credo che lo Spirito Santo è in mezzo a noi e noi vivremo un tempo bellissimo di cena del Signore. Stasera abbiamo la cena del Signore, sarà stupendo e sarà gradita a Dio, perché sapete una cosa? Gesù gradisce quando noi ci mettiamo in discussione davanti a Lui. Sarà gradito a Lui perché non sarà un semplice prendere il pane e vino in maniera meccanica, sarà il tuo metterti in condizione di cambiare, farti la domanda davanti a Dio: che cosa devo fare? E stasera io so che il Signore sta chiamando noi a passare dall'essere una folla di osservatori, magari non in tutte le aree, ma in alcune aree della nostra vita, ad essere protagonisti di una nuova stagione. Se questo messaggio ha colpito il tuo cuore, vuoi un cambiamento e vuoi entrare stasera, non domani, non fra una settimana, non quando comincia l'autunno, a fine mese, ma stasera, se stasera vuoi entrare in una nuova stagione, allora io ti chiedo di alzare entrambe le tue mani e voglio pregare per noi. Alleluia, Padre, grazie perché tu ci vedi e noi siamo qui per dirti che vogliamo essere discepoli tuoi. Non una folla, non degli osservatori, non delle persone che si saziano del cibo e vogliono vedere cose nuove, conoscere solamente cose nuove, ma noi vogliamo fare cose nuove, essere protagonisti di cose nuove. Noi vogliamo entrare a tuo servizio in una maggiore, con un impegno maggiore, con degli obiettivi più concreti e pratici. E io prego per tutti noi con le mani alzate che questo possa essere nel nome di Cristo Gesù l'inizio di una nuova stagione per ognuno dei tuoi figli qui presenti e per la Chiesa tutta. Io nel nome di Cristo Gesù dichiaro una nuova stagione nella tua vita e prego a te Spirito Santo di dare obiettivi chiari, specifici, indicazioni chiare, specifiche per una nuova stagione dove entriamo ad essere protagonisti del pieno piano che tu hai per noi di avanzamento del regno tuo su questa terra. A te la gloria e l'onore, Padre. Amen.